ni wase ototo mbo ototo je atondi no e ojera ni wase ototo mbo ototo je atondi no e omo jama di tv akisa ni ototo o e je na tondi no e Amo jama di tv akisa ni ododo atuwo e je na tondi no e Ojera ni kanso amara gbe bi ona e bana tondi mo e Ojera ni kanso amara gbe bi ona e bana tondi mo e ni wase motata mbo otondo je atondi no e onyele ni wase motata mbo otondo je atondi no e kamo jama di tv akisa ni otondo atuwo e je na tondi no e Ando jara ni koso, namara gwe ya binyona e, bana tondi mo e. Atondi so namuna buka mambo mese, abene so namuna kaba bene. Atondi so namuna buka mambo mese, abene so namuna kaba bene. Namuna buka mambo mese, abene so namuna kaba bene. Atondi so namuna buka mambo mese, abene so namuna kaba bene. Atondi so papi so buka mambo mese, abene so papi so kaba bene. Atondi so papi so buka mambo mese, abene so papi so kaba sowa. mene na toni so na mona buka ma bobese na mene so na mona kama mene Papi so, come on, baby. I don't need some papi so, come on.